Incontri di Gianfranco Fabi. Avrete certamente riconosciuto queste note della sonata Kreutzer di Ludwig van Beethoven al violino David Oistrakh. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica da Gianfranco Fabi e buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a Sergio Romano. Buongiorno. Ambasciatore, scrittore, giornalista. Sergio Romano, una lunga esperienza che vedremo poi nel nostro programma, ma iniziamo da questa sonata Kreutzer. Perché le piace questa musica? Che cosa le evoca? Mi piace per più di una ragione, prima di tutto perché è Beethoven ed è una splendida sonata, poi perché è il cuore di un racconto di Tolstoi che ha per l'appunto lo stesso titolo, forse il racconto più misogino di Tolstoi, e, anzi un racconto che suscitò nella moglie di Tolstoi una reazione molto forte. Lei scrisse un romanzo che era in qualche modo una risposta alla sonata Kreutzer, perché nella sonata Kreutzer naturalmente Il tema fondamentale è il risentimento, il sospetto di un marito per una moglie che lui considera traditrice o potenzialmente traditrice comunque. Quindi una storia, diciamo, molto particolare, molto privata. Lei però ha una prospettiva globale come ambasciatore. Uno degli ultimi, anzi l'ultimo posto in cui è stato, è stato la Russia fino alla fine degli anni 80, se non sbaglio. Quindi una lunga carriera da ambasciatore, poi giornalista, scrittore, giornalista, ricordiamo, è autore tutti i giorni di una risposta alle lettere sul Corriere della Sera, in quella che è stata la stanza di Montanelli, e poi scrittore, l'ultimo libro è Morire di democrazia, scritto per Longanesi, che in questi giorni è in libreria, direi un libro di estrema attualità, anche di questo parleremo. Ma ritorniamo a Tolstoi, ritorniamo un attimo alla Russia. Da ambasciatore, qual è il ricordo maggiore della sua carriera, più importante? Tra l'altro una carriera che, ritorniamo magari dopo, è iniziata come giornalista, mi sembra. Prima giornalista, poi ambasciatore, poi di nuovo giornalista. Sì, non subito da giornalista ambasciatore, c'è stata anche una serie di piccoli passi, altrimenti non sarebbe andata così. Beh, il ricordo maggiore è il fatto che il paese cambiava sotto i nostri occhi, stava veramente cambiando sotto i nostri occhi. Non sapevamo in che direzione andasse, per la verità. Chi aveva le idee chiare in generale esprime un giudizio retrospettivo, non è vero che avesse le idee chiare in quel momento. Ecco, lei ha iniziato a metà degli anni 50. Sì, io sono entrato in carriera nel 54, sì, nella carriera degli esteri. Ma mi sembra a Londra il primo posto? Il primo posto fu a Innsbruck, dove in qualche modo vidi nascere la questione su tirolese, perché in quel momento già si cominciava a parlarne. Poi di lì andai a Londra, da Londra tornai in Italia, poi andai a Parigi per un lungo periodo, e poi Bruxelles, la NATO e Mosca. Ecco, lei parlava appunto di una politica estera italiana alla ricerca di una direzione. Non l'ha poi trovata questa direzione, a parte il fatto di un paese che ha avuto una grande passione europeista. Sì, la grande passione europeista è stata in qualche modo il leitmotiv, la nota dominante della politica estera italiana, e sino a Berlusconi così fu. Le cose cambiarono con Berlusconi, sono cambiate con Berlusconi. Per il resto, voglio dire, la guerra fredda, nel momento in cui si stabilizzò, in cui diventò una guerra improbabile, se non addirittura impossibile, sì, l'Italia una sua nicchia se la ritagliò, per così dire, perché avevamo il rapporto stretto con gli Stati Uniti, che garantivano la nostra sicurezza, ma in un quadro in cui era molto difficile immaginare che si sarebbe passato ai fatti, vale, certo, a dire alla guerra, l'Italia poteva anche avere dei rapporti positivi con i paesi del blocco orientale, in particolare con l'Unione Sovietica. Grazie a Mattei era diventata la nostra maggiore fornitrice di petrolio, aveva un mercato che non era certamente così promettente come sarebbe divenuta più tardi, voglio dire, quando diventò un paese in via di sviluppo. Però un mercato straordinariamente sicuro. Sapevamo che cosa volevano, quando lo compravano pagavano, e pagavano con grande puntualità, con grande precisione. Era un mercato estremamente affidabile. Addirittura dopo, con Brezhnev, era diventato anche un mercato per certi beni di consumo in cui noi potevamo essere presenti. Insomma, era un mercato ideale. Quindi una certa stabilità, una crescita sicura, molto controllata dallo Stato. Quando è che ha cominciato a incrinarsi l'Unione Sovietica? Quando Gorbaciov ha ritenuto che fosse possibile riformarla. E invece non era riformabile. E quindi non si è riformata, si è sciolta, si è dissolta l'Unione Sovietica, ma la Russia di oggi ha molti tratti uguali all'Unione Sovietica di prima? Intendiamoci, voglio dire, per un cittadino russo oggi vi sono libertà inimmaginabili in epoca sovietica. Può viaggiare, può leggere, internet gli offre la possibilità di sapere quello che accade nel mondo. È vero che non può fare dimostrazioni perché Putin le considera pericoloso dissenso, però naturalmente è un cittadino infinitamente più libero di quanto non fosse in passato. Può intraprendere sul piano economico qualcosa. Può arricchirsi, forse non tutti possono arricchirsi, voglio dire, gli oligarchi sono una delle pagine peggiori della Russia post-sovietica. Perché sono diventati, voglio dire, uno Stato nello Stato. E in molti casi lo Stato più importante, molto più importante dello Stato vero. Ecco, per avvicinarsi un po' al tema della democrazia, di cui parleremo sicuramente, ma la Russia non può ancora definirsi un paese democratico. No, ma la Russia ha un problema che noi abbiamo sempre sottovalutato e quindi non l'abbiamo compresa perché non ci siamo resi conto di quali siano le reali difficoltà della Russia sulla strada della democrazia. E io credo che uno dei maggiori problemi della Russia sia il suo territorio. È lo Stato più grosso del mondo, è persino più grande della Cina. E mentre la Cina ha 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000, non sappiamo esattamente quanti. La Russia in questo momento conta 150 milioni, governare quello Stato con una demografia di 150 milioni in cui i russi sono maggioranza relativa, ma non maggioranza assoluta, beh, è un grosso problema. Voglio dire. Eh sì, perché si pensa alla Russia come la Russia europea, ma c'è tutta una parte che è la parte preponderante, anche se in gran parte disabitata, che è la Russia asiatica. E questo rappresenta il problema, controllare un territorio senza poterlo occupare demograficamente. È uno straordinario problema politico. Ecco, ma da un punto di vista di geopolitica, la Russia adesso comunque fa parte di un sistema di stabilità, possiamo dire di un sistema di rapporti internazionali in cui i conflitti, per fortuna, sono un po' lontani, sono quello della Corea, per esempio, di conflitti tra Russia e Stati Uniti non si parla più, tra Russia e Cina non si parla più, ma c'è qualcosa che cova sotto la cenere forse? Ma la Russia non ha mai rinunciato, non può rinunciare in realtà al desiderio, all'ambizione di essere potenza globale, potenza mondiale. È consapevole delle sue debolezze, sa che la guerra fredda in qualche modo le aveva conferito e assegnato un ruolo a cui non può più aspirare in questo momento, ma non può rinunciare al suo ruolo di potenza mondiale. E allora ogni qualvolta gli Stati Uniti la trattano con una certa arroganza, e accade, purtroppo accade, la Russia ha una reazione forte. Qualche volta gli Stati Uniti non si accorgono nemmeno di trattarla con arroganza. Vede, i grossi, i grandi, quando sono molto grossi, non si accorgono nemmeno di pestare i piedi degli altri, perché non vedono gli altri, non li vedono. Ecco, ma tornando un po' alla politica estera italiana, proprio in questa fase, in quest'ultima fase, lei ha già fatto presagire, fatto prevedere una certa critica verso la politica italiana degli ultimi 20 anni, una politica molto, molto alterna, molto, cioè molto vicina appunto magari a Putin, a Gheddafi purtroppo, con quello che poi è accaduto, ma non ha avuto una linea forte la politica estera italiana. Vede che l'Italia sia in qualche modo costretta dalle sue dimensioni e dalla sua posizione geografica a fare quelli che una volta si chiamavano dei giri di valzer, vale a dire ballare con l'uno, ballare con l'altro, eccetera. Credo che sia tutto sommato perdonabile, a una condizione: che il paese non rinunci alla linea fondamentale di quella, o quella che dovrebbe essere la linea fondamentale della sua politica estera, cioè l'europeismo. Quello che io maggiormente rimprovero ai governi Berlusconi è stato quello di per certi aspetti dimenticare questa linea fondamentale. Per carità, né Berlusconi, né Tremonti, né i ministri degli esteri ignoravano l'importanza che l'Europa doveva avere per noi, però l'hanno trattata come se fosse una componente, come dire, non fondamentale. Ecco, in questo senso l'Europa si è, possiamo dire, tra virgolette, un po' vendicata, nel senso che l'Italia è diventata un paese debole, anche se finanziariamente è comunque un grande paese industriale, un paese che ha un alto debito pubblico ma anche un alto credito privato, quindi è un paese sostanzialmente stabile, eppure è stata messa un po' nel mirino dei mercati finanziari, anche dell'Europa, anche di alcune banche europee, si dice, proprio per una certa sua debolezza, per un certo suo stare ai margini dell'Europa? No, credo che occorra fare una distinzione fra il ruolo politico dell'Italia e il ruolo economico-finanziario. Nel mirino dei mercati ci siamo finiti quando abbiamo dato l'impressione che non riuscivamo a trovare una soluzione al problema fondamentale che è quello dell'importanza del debito. Certo. Voglio dire, questo è un paese che per pagare gli interessi sul debito deve mettere in conto ogni anno fra i 70 e gli 85 miliardi a seconda del tasso di interesse. Voglio dire. E quando un paese va avanti così senza crescere, come è accaduto negli ultimi decenni, beh, quel paese diventa un paese a rischio. E si può anche immaginare che le cose continuino così indeterminatamente, ma se poi tra l'altro a New York, sulla borsa di New York e sulle grandi borse mondiali i mercati sono sconvolti da altri fattori che non hanno nulla a che vedere con noi, come, certo, come quello che è accaduto a Wall Street, beh, a un certo punto l'Italia finisce inevitabilmente nel mirino dei mercati. Anche perché la fiducia dei mercati non si costruisce solo con quelli che vengono chiamati fondamentali, con i parametri, si costruisce anche con le prospettive e sulla credibilità dei governi. Negli ultimi tempi la credibilità dei governi è stata abbastanza limitata proprio da dei problemi di credibilità interna, di assetto, di consenso, di capacità di governare, di possibilità di governare. Qui veniamo un po' al punto della democrazia italiana. È una democrazia matura? È troppo matura. Adesso non mi spingerei fino a dire marcia, cioè, che, voglio dire, non mi piace usare parole di quel genere, ma molto, molto troppo matura. Troppo matura vuol dire che comunque è una democrazia, quindi la democrazia lei la valuta in senso positivo, come elemento, diceva Churchill, il peggiore dei governi possibili o dei metodi politici possibili, eccetto però tutti gli altri. Sì, ma Churchill lo diceva più di 50 anni fa, forse 60 anni fa. Non credo che quella battuta possa ancora essere utilizzata. In altre parole, non sono più convinto che sia il migliore dei sistemi possibili a parte gli altri, perché in questi ultimi due decenni, tre decenni, ha subito delle trasformazioni totali, genetiche direi quasi. Prima di tutto il tasso di corruzione è andato alle stelle. Perché è andato alle stelle? Beh, perché le campagne elettorali, tra l'altro, costano delle somme astronomiche. L'ultima campagna elettorale americana è costata, quella per le presidenziali, è costata 5 miliardi di dollari. Quella precedente ne era costate 4 miliardi di dollari. Questo denaro da dove arriva? È denaro gratuito? È denaro per cui non si debba in qualche modo ricambiare il favore ricevuto? Nessun voto è gratis, potremmo dire. Nessun pasto è gratis. Quindi questo non è vero. Quindi campagne elettorali estremamente costose, denaro che affluisce a flotti, denaro che corrompe, certo, inevitabilmente, anche i migliori finiscono per qualche modo per essere coinvolti. Il risultato è anche la crescita di una classe politica alquanto diversa da quella del passato, che non concepisce più la politica come una soddisfazione morale. Dopotutto, che i politici avessero anche voglia di arricchirsi era per certi aspetti comprensibile, comunque umano, ma una soddisfazione morale c'era pur sempre. Andavano in politica perché questo garantiva uno status di rispettabilità civile che in qualche modo era gratificante. Incontri. Ancora con le note della sonata Kreutzer di Beethoven al violino David Oistrakh, riprendiamo il nostro incontro con Sergio Romano, giornalista, scrittore, ambasciatore. Nella sua carriera attualmente scrive quotidianamente sul Corriere della Sera, nella sua rubrica di risposte ai lettori, e ha scritto un libro di cui abbiamo parlato e cui parleremo ancora, Morire di democrazia, edito da Longanesi in questi giorni in libreria, molto attuale date le situazioni complicate. L'Italia era in una situazione complicata, l'ha complicata ancora di più con queste elezioni, mi sembra. Ecco, un libro che comunque parla dei problemi della democrazia non solo in Italia. Come mai in questa fase dell'evoluzione politica dei vari paesi la democrazia diventa un fattore critico e non un fattore in cui si mette insieme il consenso per dare credibilità ed efficienza allo Stato? Quali sono i problemi della democrazia attuale? Anzitutto, come dicevamo, il denaro. Troppo denaro nelle campagne elettorali. Quando il denaro interviene così pesantemente in un meccanismo politico istituzionale, il denaro finisce per corrompere, per contagiare, per contaminare, e ce n'è veramente troppo di denaro. E questo ha avuto l'effetto di rendere, tra l'altro, la carriera politica un mestiere. È un mestiere come gli altri, è un mestiere in cui si ha in qualche modo voglia di spremere tutto ciò che è possibile spremere. Ma se fosse un mestiere in cui si può esprimere merito, professionalità, capacità, competenza, ben venga. Per la verità la politica non ha mai premiato la professionalità in senso stretto, ha premiato soprattutto la capacità dell'uomo politico di essere raccoglitore di consenso. Un partito politico chiede al suo deputato in Parlamento di raccogliere consenso. Poi, se è bravo anche professionalmente, se conosce l'economia, se conosce altre branche del sapere che possono essere in qualche modo utile alla redazione delle leggi, benissimo, quello è importante, ma la cosa importante è che lui raccolga consenso. Oggi il consenso si raccoglie col denaro e quindi inevitabilmente quell'uomo politico è infinitamente più esposto alle seduzioni del denaro di quanto non fosse in passato. Vedi, la politica è sempre stata ai bordi della corruzione possibile. Tutti gli uomini politici importanti, grandi costruttori, il sindaco di Chicago, Daley, per esempio, tanto per fare un esempio, la famiglia, non parlo di quello che lo è stato recentemente, sì, ma di suo padre, di suo nonno, una vera e propria dinastia, erano corrotti. Hanno sempre percepito una tangente su qualsiasi affare passasse attraverso le loro mani, ma hanno creato una città mondiale. Adesso cosa creano i politici, oltre ad attribuire? Vede, sono nella situazione esatta in cui sono i banchieri di questi ultimi anni, i quali, finché le loro banche guadagnavano, si sono autogratificati con dei bonus molto generosi. Quando le banche hanno smesso di guadagnare, loro hanno continuato ad autogratificarsi con bonus generosi. E questa è la politica di oggi. Ecco, ma una politica, cioè, è una visione un po' disarmante, almeno come prospettiva. Devo dare un po' la prospettiva, soprattutto ai giovani. Come credere nella possibilità della democrazia di rimettere in piedi le fondamenta di uno Stato che sia uno Stato fondato sulla correttezza, sulla trasparenza, sulla capacità? Ma eliminando un altro fattore di cui non abbiamo ancora parlato e che è all'origine della crisi della democrazia, soprattutto in Europa. La democrazia è in crisi anche perché gli eletti, oltre ad essere spesso corrotti, gli eletti non sono più in grado di mantenere le loro promesse. Perché non sono più in grado? Perché i poteri che lo Stato nazionale aveva nelle sue mani, a sua disponibilità, sono stati trasferiti altrove. La sovranità nazionale si è progressivamente, ridotta, rimpicciolita, dimagrita, per così dire, perché i poteri sono altrove. Prende gli inglesi per un momento, sono di gran lunga il paese più euroscettico dell'Unione Europea, ma le loro leggi, per il 75%, sono fatte a Bruxelles. E questo è uno, tra l'altro, degli elementi per cui sono così arrabbiati con l'Europa, o dicono di esserlo. Il 70% delle leggi britanniche, e questo vale naturalmente anche per gli altri, non sono più fatte alla Camera dei Comuni, sono fatte a Strasburgo, a Bruxelles. Ecco, però questo dovrebbe portare, è stato fatto anche per portare una maggiore disciplina, una maggiore correttezza, il fatto che i governi non potessero in fondo spendere e espandere come volevano, perché poi dopo sappiamo che i problemi di una spesa eccessiva sono poi l'inflazione, sono l'instabilità, quindi ci sono altri problemi. Quindi c'è stato questo trasferimento di sovranità, soprattutto nella zona dell'euro monetaria, di cui però secondo lei non si vedono veramente i benefici? No, i benefici si vedono, ma il guaio è che molti benefici si vedono, a mio avviso, e sono molto importanti e ce ne accorgeremmo il giorno in cui non ci fosse più la moneta unica. Però la cosa che maggiormente mi colpisce è il fatto che la democrazia continua ad essere nazionale, cioè è nell'ambito del vecchio Stato nazionale che si esercitano i riti della democrazia. Il candidato mi chiede il voto e mi dice che farà per me certe cose. E io gli do il mio voto perché credo in quel momento alle sue promesse. Poi quando scopro che non può mantenere le sue promesse, non mi rendo conto delle ragioni per cui non può mantenerle, mi limito a constatare che non le mantiene. E allora mi arrabbio. Certo. Ecco, ma in questa prospettiva quale può essere la soluzione? Che cosa lei lascia intravedere in questo suo libro Morire di democrazia? Penso che non sia solo un funerale. No, credo che l'editore non l'avrebbe pubblicato se fosse stato soltanto un funerale. Anche gli editori vogliono, certo, essere propositivi, per così dire. Beh, io continuo a pensare che, per esempio, dobbiamo votare soprattutto per coloro che sono in grado di mantenere le nostre promesse. Oggi il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione europea, il deputato europeo al Parlamento di Strasburgo hanno molti più poteri di quanti non ne avessero 10, 15 o 20 anni fa. Ma noi per loro non votiamo, e quando votiamo per loro, così come accade durante le elezioni per il Parlamento europeo, votiamo stancamente, distrattamente, pensando che siano una specie di sondaggio fra un'elezione nazionale e l'altra. Non è così, ma se continuiamo a pensarlo, naturalmente non faremo mai decollare la vera democrazia. Quindi spostare un po' l'ambito del consenso sul piano europeo, magari controbilanciandolo con maggiori poteri a livello locale, i comuni o le regioni? Questo sì, in linea di principio sì, anche se nessuno mi ha veramente spiegato bene come devono essere divisi i poteri fra il centro e le regioni. C'è un paese che ci è riuscito, tutto sommato, ed è la Svizzera, e io continuo a pensare che la Svizzera sia un buon modello da studiare, da guardare, da imitare, però non sono sicuro che quello che si può fare per un paese piccolo con una popolazione molto contenuta possa essere tradotto in misure utili anche per spazi politici molto più vasti, con popolazioni molto più consistenti. Beh, in Svizzera c'è un modello che è basato essenzialmente anche sul consociativismo, possiamo dire, in cui tutti i grandi partiti partecipano al governo attraverso dei meccanismi anche elettorali diversi da quelli italiani. In Italia, proprio in questa fase, il fatto di avere una grande coalizione è vista come un tabù, come qualcosa di impossibile. Ci sono dei forse troppi blocchi ideologici in Italia? Sì, perché naturalmente il bipolarismo, da un lato, questo bipolarismo, questo bipartitismo zoppo, e la presenza di Silvio Berlusconi nella politica italiana hanno creato una sorta di guerra civile fredda, per fortuna fredda, e tale rimarrà, mi auguro, ma comunque una sorta di guerra civile fredda, un antagonismo, una faziosità nel rapporto interpartitico, che poi tra l'altro è quotidianamente contraddetto dalla capacità di accordarsi in modo opaco. Quindi l'Italia è un paese in cui la lotta politica è diventata molto faziosa in apparenza e molto compromissoria nella realtà dietro le quinte. Quindi vede questa possibilità anche con questa novità in fondo del movimento di Beppe Grillo, che in fondo ha rotto le carte di un bipartitismo che non c'è più. Ma io partirei da questa osservazione. Il fenomeno Grillo è un fenomeno sociologicamente e politicamente molto interessante, ma io non posso dare il governo ai grillini. A Grillo non si può permettere di dare il governo, semplicemente perché non sono riusciti ancora a dirci come lo eserciterebbero questo potere se lo avessero. Quindi in queste condizioni bisogna lasciare che imparino. E è un buon modo di imparare è di stare all'opposizione. Facciano l'opposizione, perché no? È un'eccellente scuola di politica. Però il governo bisogna che lo faccia qualcun altro. E allora bisogna avere i voti per fare un governo. E allora bisogna avere i voti per fare il governo, o bisogna che ci sia un governo reputato di emergenza che in qualche modo governa con l'aiuto del consenso rabbioso e infastidito degli altri. Non mi importa che sia rabbioso o infastidito, perché accettino di lasciarsi governare. Guardando più avanti, comunque bisogna avere fiducia in questo paese, perché le risorse in momenti di emergenza sono sempre venute a galla. Forse anche guardando un po' in avanti, avere fiducia in una classe politica che riesca un po' a cambiare, a rinnovarsi, possiamo averla? Ma voglio dire, anche nei momenti peggiori ci sono fenomeni positivi. Per esempio, questo Parlamento si è molto ringiovanito, grosso modo 10 anni di meno la certo. media. Questo Parlamento ha un rapporto uomo-donne molto più positivo, grosso modo la presenza femminile è salita del 10% all'interno. Sono fenomeni generazionali molto importanti. Questo è un paese che continua ad esportare e questo è un paese infinitamente meno arrabbiato per ora, e Dio voglia che continui così, di quanto non siano altri paesi invece che la crisi la vivano certo. in modo molto più potenzialmente violento. Ecco, ci sono degli elementi positivi che non vanno dimenticati e su cui si può costruire, anche tenendo conto appunto che ci sono elementi negativi che magari bisogna aspettare, avere il tempo e la pazienza di vedere che cambino. Vede, non è realistico essere molto ottimisti sull'Italia, ma è ancora meno realistico essere pessimisti. Grazie mille, grazie a Sergio Romano per questa saggezza. Ricordiamo, chi vuole saperne di più sul tema della democrazia, il libro di Sergio Romano è Morire di democrazia, edito da Longanesi, in questi giorni in libreria. Ringrazio anche Roberto Scartritti in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24 e le altre puntate del nostro programma Incontri, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buon pomeriggio e ancora buona domenica.